Il mio divieto è un divieto temporaneo, perché è un divieto che chiede una nuova regola. Cioè, io non è che dico non facciamo più manifesti del corteo nel centro storico per tutta la vita. Io chiedo una regola che dia dei limiti, che dia delle attendibilità. Perché il problema qual è? Che la CGIL manifesta e sa manifestare, ma dietro il modo in cui la CGIL fa le sue manifestazioni non c'è nessuna regola che impedisca che dietro alla CGIL vanno COBAS, gruppi, sottogruppi, eccetera, eccetera, che non hanno nessuna capacità né di avere regole, né di avere numeri sufficienti per dire, per dare credibilità alla protesta, e né un limite attraverso cui manifestare. E la CGIL non ha mai avuto il coraggio di fare un distinguo tra se stessa e queste altre realtà. Allora bisogna fare in modo che escano fuori delle regole e che ci sia una scelta irrevocabile, irrevocabile di legalità, proprio per l'esperienza che ognuno di noi ha vissuto 10, 20, 30 o 40 anni fa.